Ciao a tutte, benvenute nello spazio autogestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Siamo Samantha e Federica e questa volta siamo in onda alle 17:23. Siamo sempre noi, quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua. E questa sera al... Oddio, scusate, è pomeriggio, avete ragione. L'abitudine. Brutta bestia. E comunque questo pomeriggio vi parleremo del ruolo delle donne nei fumetti. Was a new girl in town. Allora, argomento diverso, invece di parlarvi di una donna, della sua storia, di quello che ha fatto, stasera oggi pomeriggio, dai, abbiamo pensato di raccontarvi un po' quello che invece è il ruolo della donna nell'ambito del fumetto. Naturalmente in un'ora, poco meno di un'ora, non è che possiamo raccontarvi tantissime cose, quindi ci siamo concentrate su alcune cose. Abbiamo provato a fare un piccolo percorso. Sì. Tanto anche i fumetti avranno influenzato il nostro immaginario. Ah, ma sicuramente. Ce lo auguriamo per loro. Sì, le donne dei fumetti. Nonostante la nostra riflessione. Sì, allora dicevamo appunto le donne dei fumetti. Anche qui spesso il personaggio femminile nel fumetto risponde a una serie di stereotipi che sono maschili il più delle volte. In alcuni casi proprio maschilisti. Nonché maschilisti. Esatto. Questo perché il fatto è dovuto dal predominio di autori e lettori uomini nel mondo del fumetto in generale. E cosa ancora più importante. Nonché dal fatto che l'epica del supereroe mette in risalto tutta una qualità. Una serie di qualità fisiche tradizionalmente legate alla figura maschile. Già, e questo è vero soprattutto per il fumetto statunitense e in particolare per il genere supereroistico, scusate, ma oggi è uno scioglilingue supereroistico. Esatto, è uno scioglilingue che Samantha ha messo lì apposta per farmi vedere. Ebbene sì, te l'ho fatto apposta. Comunque sì, avevamo pensato di partire raccontandovi un po' quella che è la forma del fumetto in America, forse no, il luogo dove il fumetto è... Partiamo da là e poi sì, ci spostiamo allegramente. È visto tra l'altro in America il fumetto un po' come una vera forma d'arte e non soltanto come un passatempo, un hobby così, tanto per... Sometimes I think è il supereroe? Iniziamo così con questa domanda. Bella domanda. Il supereroe è un personaggio di fumetti, libri, cartoni animati, film, che si caratterizza per le sue doti di coraggio, nobiltà, di solito ha abilità straordinarie rispetto a quelle dei poveri esseri umani normali, oltre a possedere un nome e costumi il più delle volte pittoreschi. Fra l'altro pare che loro passino la maggior parte del loro tempo combattendo contro mostri, disastri naturali e supercriminali. Una vita faticosa quella del supereroe. Ebbene sì. E già vediamo subito dalla parte, diciamo, più dall'apparenza, no? Già soffermandosi soltanto sull'apparenza, è evidente che mentre i supereroi sono sempre equipaggiati di tutto punto, la caratteristica principale delle supereroine sembra proprio essere quella semplicemente di vestire il più possibile degli abiti succinti. Oh, guarda un po'. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend who might know better than me. She says that you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. What can we be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. What is did nobody tell you the reason why I ask? I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money is too complete. Why not leave this life while you're still young? It's still okay, 'cause life is short. Do what you can. Siete sempre su Radio Onda Rossa, state ascoltando Quando Eravamo Pelose, e noi siamo sempre Samantha e Federica, e oggi vi stavamo raccontando un po' quello che è il ruolo dei personaggi femminili nei fumetti, nel mondo dei fumetti. Eh sì, quello di cui ci siamo resi conto è che alla fine questi personaggi femminili sono quasi sempre ridotti ad un ruolo comprimario, da spalla, diciamo. Quindi c'è Batgirl, Catwoman, Supergirl o Susan Storm, che sono soltanto alcuni degli esempi più noti, però questi personaggi ancora sono fisicamente deboli e soprattutto di solito entrano cioè più spinte da interessi romantici che davvero ruolo da supereroine. È vero, però esistono delle eccezioni anche qui, e sicuramente la più celebre, la più conosciuta, cioè ormai anche da anni, è lei, Wonder Woman, la donna delle meraviglie, appunto. Ebbene sì. Sì, che fa parte della collana della DC Comics, una delle più importanti in America, e in questa collana è uno dei fumetti principali, uno dei personaggi principali, insieme ad altri tre grandi, sono niente po' di meno che Superman e Batman, insieme ad altri due grandi, scusate. Il trio sarebbero appunto Wonder Woman, Superman e Batman, e non è poco. Beh, certo, finalmente anche le donne riescono ad ottenere il loro ruolo. La parità nei fumetti. E pare che nel 1941 sia stato creato questo personaggio da tale William Moulton Marston. Sì, una cosa curiosa sembra, poi insomma tra le notizie che abbiamo trovato, che l'uomo che appunto immaginò Wonder Woman era una sorta di teorico del femminismo e avrebbe creato la mitica eroina per dare un simbolo alle donne dell'epoca, un modello che fosse in grado di portare avanti con forza le loro idee e il loro mondo. Già se soltanto fosse qualcuno che si è reso conto che mancava finalmente una supereroina nei fumetti, a noi andrebbe più che bene. Ora, teorico del femminismo. Love is strange, oh love. When there's beauty on the inside, the outside, there's nothing to change. In the life that I know, or after it, I wanna be someone to love, with someone watching over me, rain or storm. The only place I wanna be is close to the heart of everything you'd ever need. The life is not frightening when you are with me. Oh, cause love is not always what you think it'll be. Love, oh, love is strange, oh, when there's beauty on the inside, the outside, there's nothing to change. Era in realtà Wonder Woman. Wonder Woman era l'amazzone Diana dell'isola di Temiscira, una formidabile guerriera inviata in pratica dagli dei per vegliare sull'umanità ed essere la loro ambasciatrice tra i mortali. La nostra eroina sceglie di stabilirsi a Washington, dove opera nascondendosi dietro l'identità fittizia di Diana Prince. Il suo esordio e la sua carriera naturalmente sono uniche ed incredibili, anche perché vi abbiamo appena detto che è una delle prime, nonché la prima, almeno ad avere un proprio ruolo. Sì, e soprattutto perché cambia proprio il senso della storia, visto che di solito tutte le vicende dei supereroi erano semplicemente incentrate e erano solo raccontate al fine di poter salvare la fantastica fanciulla di turno e mostrare i muscoli e il cervello fuori dalla norma. Finalmente invece le storie di Wonder Woman assumono anche un altro aspetto. Si apre un mondo nuovo. Ma finalmente, finalmente. Sì. Ma per una campionessa del bene targata appunto DC Comics si può dire che esiste un personaggio della Marvel, l'altra grande antagonista nell'editoria dei fumetti e affini, che subito invidiosa è pronta idealmente a contrapporvisi, che però trae forza dal suo percorso al limite tra il bene e il male, un personaggio un po' più ambiguo, un po' più a tinte tra virgolette nere. Giustamente la Marvel decide di fare l'antagonista di Wonder Woman, no? Sì, in qualche modo. Dai, ci si può anche vedere questo antagonismo dentro. Parliamo naturalmente di Elektra, letale assassina nata prima sulle pagine di Daredevil, ma ben presto diventata protagonista lei stessa di proprie storie, tra l'altro storie di notevole spessore. Questa è una cosa che succede spesso alle eroine di cui noi siamo fiere, il fatto che loro vengano prima in qualche modo disegnate come comprimarie e poi riescano sulla pagina a conquistare il loro pubblico e a diventare le protagoniste delle storie. Eh sì, forse per quanto riguarda i fumetti dei supereroi al femminile, Wonder Woman rimane ancora un po' unica nel suo genere. Ebbene sì. L'ambiguità morale di Elektra si può però ritrovare anche in un altro personaggio ormai storico del fumetto, Eva Kent, un altro personaggio tra l'altro nato come comprimario che tuttavia gode di una grandissima fama. Eh sì, siamo arrivati a lei, la famosissima Eva Kent. Eh sì, e con lei iniziamo un'altra storia, la storia del fumetto in Italia in qualche modo. Eh sì, ci spostiamo. E Eva Kent è la compagna del mitico Diabolik. Chi non ha mai letto almeno una volta nella vita un fumetto di Diabolik? Sì, l'abbiamo trovato tutti nel bagno. Sì. E l'abbiamo letto. E l'abbiamo letto. Giustamente, finalmente c'è una. Sono tutti e due insieme, no? Nascono insieme, insieme si appoggiano e si spalleggiano, e pare che questa, noi vogliamo dire che questa cosa è stata perché, sì, secondo noi finalmente due donne, esatto, creano un fumetto. Il fumetto Diabolik è stato pensato e creato da due donne nel 1962, da Angela e Luciana Giussani, e forse per questo in fondo la compagnia di Diabolik è il suo naturale completamento in un rapporto che ha una parità inedita per il fumetto dell'anno dell'epoca, insomma. Sì, finalmente non è l'uomo a prevalere in nessun modo sul fumetto e sull'evoluzione della storia, ma è proprio la complicità fra loro due che spesso riesce a fare la differenza e riesce a renderli Eva Kent e Diabolik. Esatto, tra l'altro Eva Kent è ascoltata moltissime volte da Diabolik, cioè non è solo Diabolik che prende no, le decisioni importanti, per cui effettivamente una coppia anomala per il fumetto italiano degli anni 60. Finalmente le nostre sorelle Giussani ci hanno regalato un bel fumetto. È vero, è vero. E crimine, soprattutto un bel ruolo. Sì, un bellissimo ruolo. Il crimine però non è il mestiere soltanto di Eva Kent, ma anche di un grande personaggio adorato da Samantha, Giulia Kendall. Adorato mi sembra esagerato, però sì, so chi è, l'ho letta. Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, e fra l'altro mi diverte leggerla, perché lei è dalla parte opposta di Eva Kent e quindi è una criminologa. Però è la parte del bene. Sì, sì, poi è questa versione Audrey Hepburn, per cui somiglia tantissimo a lei ed è sempre così. Di la verità, ti piace più perché assomiglia a Audrey Hepburn? No, mi piace perché lei è la criminologa dell'animo proprio. Sì, sì, l'investigatrice dell'animo, è così. Ebbene, insomma, sì, come è conosciuta anche così, è nominata così negli anni. Fumetto nato nel 98, tutto italiano anche questo, non creato da una donna ma dal grande Giancarlo Berardi. E proprio per la sua capacità umana di comprendere gli individui più pericolosi, risolve sempre tutti i casi. Esatto, e questo l'ha resa uno dei più grandi successi editoriali della casa Bonelli. Thank you. di tutt'altro genere sono le donne di altri due grandi fumettisti italiani, forse più conosciuti in Italia, Guido Crepax e Milo Manara. Eh sì, siamo proprio arrivati a parlarvi di Valentina. E qui si apre proprio un altro capitolo ancora. Un altro mondo. Valentina è stata creata apposta da Guido Crepax. Niente, il momento no di Samantha. Questo. Nonostante sia pomeriggio. Comunque è un personaggio talmente eccentrico e particolare che non è che sia proprio possibile descrivervela con così poche parole. Certo è che la protagonista finalmente è il centro di una gravità di storie che portano il lettore al centro del mondo e di quello dell'autore. Sì, siamo nella Milano anni 60 più o meno, e che convive appunto nelle storie che sono una sorta di sogni occhi aperti di Valentina, che comunque è una donna indipendente, protagonista delle sue storie, delle storie che appunto vengono raccontate da Crepax, che solo apparentemente sono quotidiane, ma poi via via che percorrono la propria strada prendono delle vie, assumono delle sfumature quantomeno oniriche se non imprevedibili. La prima pubblicazione di Valentina comparve all'interno della rivista mensile Linus. Oddio. E si intitolava La curva di Lesmo. Sì, abbiamo letto tutti anche Linus. Bellissimo. Però a dire il vero anche qui c'è la particolarità del fatto che inizialmente il protagonista di quella storia era Philip Rebran, alias riecco. Neutron. Infatti rieccoci caduti nel solito gioco. Ebbene sì, Valentina Rosselli era semplicemente la fidanzata di questo critico d'arte, nonché investigatore dilettante. Naturalmente era bella, sensuale, fotografa, caratterizzata da questo caschetto nero e molto somigliante a una famosa attrice del cinema muto, Louise Brooks. Two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself, gotta make a move. Stand up, stand up, baby. You got to stand up, baby. Stand up. Ma ben presto anche Valentina fa le scarpe al buon Filippo. Ebbene sì, finalmente sì. Il successo è tutto per lei, scalza il protagonista e si conquista lei stessa il ruolo di protagonista di tutte le storie seguenti. Pare che ciò che colpisca maggiormente di questo personaggio, che naturalmente si rivolge ad un pubblico più adulto, sono i suoi viaggi onirici, ricchi di una simbologia surrealista, definiti un capolavoro di introspezione psicologica, che comunque la vedono spesso e volentieri sconfinare nel mondo dell'eros. Vedi? Che motivo per cui è per gli adulti, sì, anche è il motivo per cui vende forse anche, sì, visto anche dove viviamo. Anche comunque sempre questo aspetto... Guarda caso, lei sconfina nell'eros. Però diciamo che rispetto a tanti altri personaggi della maggior parte dei fumetti, Valentina ha una caratteristica particolare. È un personaggio che invecchia con il passare del tempo, come tutti gli altri esseri umani. Quindi diciamo forse somiglia un po' di più a chi la legge. Diciamo che queste eroine già nel tempo si erano un po' più adattate agli esseri umani, avevano sviluppato delle particolarità più mentali e non realmente di superpoteri. Fra l'altro Valentina invecchia anche, quindi abbiamo sdoganato un'altra parte. Sì, un'altra parte mitica delle regole. Dei fumetti. Nell'ultima storia, infatti, che è stata realizzata nel 95, Valentina compie ben 53 anni e segna la sua uscita di scena dal mondo dei fumetti con un episodio con un titolo favoloso, Al diavolo Valentina. Cioè, fantastico, una genialata. Sì, la condividiamo, Al diavolo Valentina. E oltre a Guido Crepax parlavamo di Milo Manara. Sì, e qui andiamo un po' in un altro genere, un genere... un po' tutto suo, sappiamo un po' tutti ancora più con ancora più forti tratti di sensualità. Sì, infatti dicevo proprio, sappiamo un po' tutti in che modo Milo Manara vedeva le donne nei suoi fumetti. Erano personaggi per lo più sensuali, bellissime donne, personaggi sì di una bellezza memorabile che sono diventati qualcosa di proverbiale. Cioè le donne di Milo Manara si intendono proprio per... Sono conosciutissime. Sì, per intendere un genere a sé di donna. Anche ecco. Se in questo caso abbiamo fatto un radicale passo indietro, sì. Perché naturalmente non fanno onore alla categoria. Sì, hanno delle qualità un po'... insomma forse... non sempre è tornato un punto di condivisibili, vista maschile. Sì, sono sottomesse o tentatrici, sono quasi sempre entrambi gli aspetti, sì, però comunque in tutti e due i casi riesce a racchiuderle sempre in una certa sfera. Sì, quella sessuale, sono sempre legate alla dimensione sessuale. Sono come degli oggetti pensanti, diciamo, è anche un po' brutto dirlo, però è così, e soprattutto disegnati per lo più per il piacere dell'occhio maschile. Per cui il giro si conclude un po' come era cominciato, no? Constatando appunto la... Abbiamo provato a cercarne di tutti i colori, ma questo siamo riusciti a trovarvi. Sì, abbiamo constatato ancora una volta la subalternità delle donne rispetto agli uomini nell'immaginario fumettistico. Così come numerose autrici, anche molte protagoniste dei fumetti paiono chiuse in una gabbia di luoghi comuni che sono duri a morire. Discorso a parte lo merita un piccolo miracolo racchiuso nel mondo a fumetti che proviene però dall'altra parte del mondo, come no? Naturalmente. Infatti sì, ci siamo spostate in Argentina. Eh sì, e parliamo della donna più impegnata nella storia del fumetto, che in realtà ha soltanto 6 anni. Eh sì, parliamo proprio di Mafalda. Protagonista delle strisce di Quino dal 64 al 73, la bambina che proviene da Buenos Aires è una sorta di voce della coscienza per chiunque la circondi, grandi, piccoli, animali, insomma. Anche tutti. Per tutti noi lettori. Naturalmente a cominciare dai propri genitori e dai suoi amici. Ebbene sì, il confronto con la mamma pare che sia particolarmente interessante, visto che Mafalda rivendica per le donne un'indipendenza materiale e intellettuale a cui in realtà sua madre ha rinunciato, abbandonando gli studi universitari per la vita casalinga. Triste, un po' triste. Sì, estremamente triste. Infatti lei giustamente è cresciuta nel modo opposto e giustamente urla contro tutti. Sì, e forse ha ragione lei quando in una delle sue battute più significative esclama: e tirar fuori qualche volta l'intelligenza come le gambe per sgranchirla? Chest, stuck in my throat, pulling me down like a rumble. trembling the ground crawls up from the depths with a deep down sound. Johnny got a bull bull, Johnny got a band. He got it. Big bum body, lonely neck. Swell was a woman that had his grip. Big vibrations, yeah, just one glance. He's gonna blow my mind. E anche per oggi siamo arrivate alla fine della nostra trasmissione. Sono le 18.09 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e noi vi lasciamo fino alle 23, sempre con l'MFLA e con tutte le nostre notizie. Grazie a tutte per averci ascoltato, continuate ad ascoltare MFLA. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane.